C'è una convenzione europea che attende da 11 anni di essere ratificata dall'Italia ed è la Convenzione internazionale anticorruzione, firmata nel 1999. Bene, questa convenzione europea contiene una raccomandazione molto importante perché ciascun paese adotti le necessarie misure legislative per considerare reato il fatto di promettere, offrire o procurare direttamente o indirettamente qualsiasi vantaggio in debito per sé o per terzi a titolo di remunerazione a chiunque afferma di poter esercitare un'influenza sulla decisione di un pubblico ufficiale. Certo. E naturalmente, specularmente, raccomanda di considerare reato il fatto di sollecitare, ricevere o accettare l'offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno effettivamente esercitata. Ritorno al discorso iniziale. Oggi spesso le cosche, comunque gruppi criminali, gruppi anche imprenditoriali criminali, pagano il politico, che non è un pubblico ufficiale o non sempre è un pubblico ufficiale, perché il politico magari tra anni, tra 2, 3, 5 anni, eserciti la propria influenza sul pubblico ufficiale o sull'amministratore di un ente locale per avvantaggiare il corruttore che anni prima aveva garantito denaro o altra utilità al politico.